Ci siamo? Sì, ok, perfetto. Bene, innanzitutto grazie di essere qui stasera e concedetemi di dire, insomma, che per noi arrivare al venerdì è sempre, al venerdì della Terra Trema, in questo momento è sempre un momento, come dire, importante e non scontato, e ci diciamo anche questa volta ce l'abbiamo fatta, perché appunto tra l'altro quest'anno mancavamo da 3 anni e fare quello che vedete nel salone, nel teatro, è una cosa non facile, fatta soprattutto con la nostra modalità, che è quella dell'autogestione, dell'autoorganizzazione. Ci teniamo sempre a ribadire che la Terra Trema è un progetto, un evento fatto senza sponsor, senza finanziamenti, senza riconoscimenti istituzionali, fatto in un posto come Leoncavallo con la sua storia e partendo da un paese e un piccolo spazio periferico come Abbiategrasso e come il Folletto. Scusate questa introduzione, ma a mio avviso era importante, è importante sempre riconoscerlo, visto che apparentemente qualcuno non finge di non vedere questa cosa che da 14 anni e da un ventennio arriva a Milano con tutte le implicazioni del caso. Ma veniamo all'incontro di stasera. L'incontro di stasera, insomma, è arrivato a una serie di implicazioni. Implicazioni che riguardano un po' tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni con Critical Wine prima e con la Terra Trema poi. In tutti questi anni siamo entrati in relazione con tante realtà agricole, produttive, specificità territoriali, in quelle che poi a un certo punto noi abbiamo scoperto chiamarsi aree periferiche, aree interne, aree montane. Noi chiaramente siamo entrati in contatto con persone, con agricoltori che abitavano e lavoravano in questi territori, e attraverso il loro lavoro, attraverso le relazioni dentro in quei territori, abbiamo conosciuto quei territori, abbiamo conosciuto una modalità di starci in quei territori. E in qualche modo spesso abbiamo aiutato questi territori, siamo entrati appunto in relazione, abbiamo costruito dei passi insieme, abbiamo visto cambiare queste realtà produttive e cambiare quei territori, oppure li abbiamo visti accompagnare tutta una serie di implicazioni, di rapporti con questi territori. Questi territori sono il 60% di quello che è l'estensione territoriale di questo paese, quindi di più della metà, però appunto vengono considerati in qualche modo marginali e periferici. Nell'ultimo periodo tornava, è tornato spesso, un po' di ragionamenti intorno a che cosa stava succedendo in questi territori, quindi sulle Alpi, ma sugli Appennini, sulle situazioni appunto di provincia che poi diventavano periferie. Noi abitiamo ad Abbiategrasso, a 25 km da Milano, tra il Parco Agricolo Sud e il Parco del Ticino, e è sempre stato considerato un territorio provinciale, un territorio con una vocazione agricola, che però noi negli ultimi anni abbiamo visto in modo repentino cambiare e diventare qualcosa più simile a una periferia, con tutti i tratti della periferia e con tutte le difficoltà del vivere in periferia, vedendo servizi erosi, sentendoci molto più lontani da Milano, anche se siamo a 25 km da Milano, quindi una difficoltà fisica oggettiva di raggiungere a Milano, una difficoltà anche in qualche modo di rapporto con la metropoli. abbiamo visto però da un'altra parte incominciare una narrazione intorno a questi territori, una narrazione che noi definiamo in qualche modo tossica, una narrazione che poi si è accompagnata a soldi che incominciavano ad arrivare in questi territori in diverse forme: soldi pubblici, soldi della comunità europea, soldi del PNRR, con una narrazione che accompagnava questi soldi. Arriveranno dei soldi per aiutare questi territori, ma in che modo? E quindi lì si è innescata un'operazione di marketing per avvallare questo processo. Ma questo processo cosa conteneva veramente? A noi ci sembrava, parlando con le persone che li abitano questi territori, e qui stasera vedo già delle persone che stanno, che appunto questi territori li abitano, li vivono, hanno costruito anche dei movimenti, hanno costruito anche una modalità di starci, delle forme di vita in questi territori, in qualche modo però arrivavano questi soldi, arrivavano alle istituzioni pubbliche, ma arrivavano anche i privati. Penso ad esempio alla Valsusa con i soldi di Telt e con i soldi delle compensazioni, quindi un ricatto anche, perché territori in cui mancano dei servizi, territori che magari devono essere messi in sicurezza, territori in cui manca appunto dei servizi pubblici, in cui si fa fatica a viverci e a lavorare, territori in cui magari ci sono un trentennio di lotte contro una grande opera come può essere il TAV, e chi è, come dire, ingaggiato per costruire quest'opera adesso viene ingaggiato per mettere dei soldi lì. Tra l'altro anche in ambito agricolo, penso al progetto Vigne, quindi vuol dire in qualche modo stravolgere quello che esiste per poi riessere riassegnato, e con tutte le implicazioni che questo vuol dire. In che modo tu vai a mettere dei soldi, in che modo tu vai a stravolgere e cambiare un territorio, in che modo tu vai a stravolgere una modalità di produzione, una modalità di relazione con quel territorio e con la natura di quel territorio. Insomma, le narrazioni sono state tante, le implicazioni sono veramente tante, quindi abbiamo incominciato un attimino a provare, su suggestione anche di chi abitava quei territori, a costruire questo incontro. E vengo alle persone che ci sono qua di fianco a me, ma penso anche alle persone che vedo e riconosco tra il pubblico. Provare a fare una prima chiacchierata per disinnescare una narrazione e per provare invece anche a dare forza ad altre modalità di stare nei territori, un'altra modalità di narrare questi territori e provare a costruire quello che una volta si diceva delle reti, quello che più semplicemente a me viene in mente se guardo all'esperienza della Terra Trema: coltivare delle relazioni, mantenere forte le relazioni, conoscerci per provare appunto a fare altri passi insieme. Abbiamo invitato Andrea Membretti, che è un sociologo, insegna sociologia del territorio, giusto? All'Università di Pavia, fa parte dell'associazione Riabitare l'Italia, che è un gruppo di studiosi che in qualche modo sta facendo ricerca, sta facendo un tentativo, diciamo così, di analisi di quello che sta succedendo in questi territori, di quali sono in qualche modo le opportunità in questi territori, quali sono le contraddizioni e quali sono appunto gli aspetti che prima accennavo. Abbiamo invitato Lucia Tozzi, che è una giornalista, ricercatrice indipendente, e si è occupata tanto di turistificazione, di turismo, soprattutto nelle città, però ci sembrava interessante provare a mettere allo specchio la sua esperienza, il suo lavoro, con quello che in qualche modo sta succedendo in questi territori definiti appunto aree interne, aree montane, perché è uno dei dispositivi, dei grimaldelli utilizzati per poi giustificare una serie di operazioni che stanno avvenendo in questi territori. Quindi lascio la parola a loro, prima ad Andrea, prima a Lucia, per raccontarci un po' che cosa si intende quando si parla di aree interne, qual è un po' lo sguardo rispetto a poi la tua esperienza, Lucia appunto col discorso di prima, e poi appunto ci piacerebbe provare a fare una chiacchierata insieme e portare, sentire le esperienze un po' anche delle persone che ci sono qui e che questi territori li vive. Per ora io mi taccio. Grazie, si sente, credo. Intanto mi fa molto piacere questo invito, essere qua ancora, Leo, dopo un po' di anni, insomma ogni tanto periodicamente ci si reincrocia e come dicevo prima Daniele, tra l'altro 20 anni fa praticamente abbiamo fatto questo libro insieme, Leon Cavallo S.p.A. Spazio Pubblico Autogestito, quindi cade anche quasi nel ventennale di quella riflessione su un centro sociale che in qualche modo ha fatto non solo la storia dei centri sociali, ma anche risignificando quello che vuol dire l'esperienza dell'autogestione, cambiando in qualche modo anche la definizione, no? da centro sociale a spazio pubblico. Dico questa cosa perché il tema dello spazio pubblico credo che abbia a che fare con il ragionamento che facciamo questa sera e con quello che è il riferimento alle aree interne, ad allargare lo sguardo rispetto all'area metropolitana, all'area urbana in cui luoghi come questo sono inseriti. E effettivamente qualche anno fa sarebbe stato abbastanza impensabile, nonostante ci siano già da tempo delle reti di collegamento, penso ovviamente al consumo critico, ai gruppi di acquisto solidale, a tutte le realtà che comunque da diversi, ormai almeno 2 decenni, cuciono insieme, diciamo, le pratiche urbane e le pratiche di resistenza, anche di consumo critico, di produzione critica. Però ecco, negli ultimi anni stiamo assistendo a una situazione diversa, cioè alla possibilità di riconcettualizzare il rapporto tra la città, l'area metropolitana e le aree appunto non urbane, come diceva giustamente, le aree interne, le aree montane, le aree appenniniche, alpine, nel nostro caso la gran parte delle aree interne, cioè delle aree lontane dai principali poli di servizi che sono collocati nelle città, sono comunque nelle Alpi e negli Appennini, sono su rilievi, sono in vallate, sono a quote spesso anche superiori agli 800-1000 metri. Ecco, è una riflessione che possiamo fare negli ultimi anni perché, e cominciamo a fare ancora di più dopo 2 anni e mezzo di pandemia, perché c'è anche un diverso modo di raccontare questi territori rispetto a quello che è stato fino a un recente passato. Con l'associazione Riabitare l'Italia, che è stata costituita anch'essa circa 2 anni e mezzo fa, 3 anni fa, all'inizio della pandemia, abbiamo iniziato proprio a ragionare su questa diversa significazione del rapporto tra le aree metropolitane e le aree interne, montane, rurali del nostro paese. Poi questo ragionamento si può fare a livello ovviamente anche europeo. Cioè abbiamo visto che c'è uno spazio per pensare, immaginare, costruire quelle che abbiamo chiamato delle relazioni, delle alleanze metromontane. Noi abbiamo pubblicato un libretto, che ho portato qua anche una copia per diciamo l'archivio, che si intitola Metromontagna, proprio perché le aree interne del nostro paese sono in gran parte aree montane, di fatto. Il nostro paese è composto, come si ricordava, per oltre il 60% da territorio montuoso, che siano le Alpi, che siano gli Appennini, la dorsale appenninica ancora di più che è estesa. Ecco, allora metromontagna è il termine che abbiamo utilizzato per in qualche modo risignificare questa relazione che a lungo, perlomeno nelle narrazioni dominanti, è stata negata o è stata posta in termini non convincenti, come fosse una alterità o addirittura una contrapposizione tra le aree metropolitane urbane e quello che sta fuori, l'extraurbano. Da questa contrapposizione di significati, di pratiche, ne sono discese poi appunto delle attività, dei modi di trattare i territori, per cui la marginalizzazione di cui si diceva, la periferizzazione delle aree interne, rurali, montane, è legata anche a questo modo di concepirle, cioè territori che sono stati concepiti a lungo come residuali rispetto alla metropoli, oppure, quindi marginali perché poco produttivi, poco interessanti rispetto a certe dinamiche del capitalismo estrattivo, oppure invece dei territori dell'intrattenimento, del leisure, dei territori diciamo a uso e consumo, appunto credo che si dirà poi nell'altro intervento, della turistizzazione estrema, quindi territori sempre però visti in una logica residuale rispetto alla città. Cioè noi veniamo da un'epoca in cui comunque questa narrazione urbano-centrica è stata dominante. E io credo che le pratiche, come già appunto si ricordava da quasi 20 anni, dal Critical Wine ai gruppi di acquisto solidale che già negli anni 80, primi anni 90 si muovevano nel nostro paese, il consumo critico, ci hanno messo in evidenza come effettivamente ci siano e ci siano sempre stati degli spazi di relazione, al di là di questa contrapposizione tra urbano e rurale, tra città e aree interne e montane. Però negli ultimi anni, negli ultimi tempi, questa cosa si vede maggiormente. E noi lo vediamo dall'osservatorio della nostra associazione perché c'è un interesse diverso, come si diceva prima, un interesse che in molti casi però è anche strumentale poi attuare delle politiche rispetto alle quali siamo decisamente critici, anche dell'associazione. Qua qualcuno ha portato il libro, il libretto sempre che abbiamo pubblicato recentemente, Contro i borghi, si intitola, c'è Metromontagna, c'è il manifesto di Abitare l'Italia. Contro i borghi, perché? Perché ci siamo espressi già alcuni mesi fa, appena è uscito il piano borghi, no? Per la rivitalizzazione diciamo delle aree interne con queste bombe di soldi, sapete, 20 milioni di euro su ognuno di questi piccolissimi comuni che hanno 200-300 abitanti, uno per ogni regione, per riqualificarli come hub, diciamo così, no? Con la terminologia anglosassone del turismo sostenibile, dello smart working, eccetera eccetera. Noi ci siamo subito posti in una posizione critica nei confronti di questa idea di appunto rivitalizzazione delle aree interne montane, perché ci vedevamo e ci vediamo una logica non diversa da quella della rigenerazione urbana cosiddetta che viene fatta in questi contesti, cioè tra il quartiere Garibaldi Repubblica, il Bosco Verticale e la bomba di soldi sul piccolo comune di Elba in Valmaira nel Cuneese, non vediamo una grande differenza, c'è lo stesso modo di trattare la questione, si pensa che determinati interventi massicci, iniezioni di capitali possano rivitalizzare questi territori attraendo poi ulteriori investimenti e a cerchi concentrici, producendo in realtà quello che noi sappiamo dagli studi che si fanno da almeno 30-40 anni sulla gentrificazione urbana, in realtà si producono ulteriori diseguaglianze, si producono ulteriori disparità tra i luoghi e le porzioni di territorio in cui si concentrano i soldi e poi arrivano ovviamente le persone che possono vivere lì a fare determinate forme di lavoro a distanza, che possono stare alcuni periodi dell'anno, e il resto del territorio sul quale cala sipario e non c'è attenzione. Allora, questo ragionamento noi lo portiamo su un altro piano, cioè la metromontagna è un modo diverso di raccontare e narrare delle cose che stanno già succedendo. C'è un immaginario che si va sviluppando ormai da diversi anni nei confronti delle aree interne montane, che è diverso dall'immaginario tradizionale molto metropolitano che si era sviluppato negli anni 70-80. Quindi la montagna, le aree interne, non come il luogo altro, l'eremo in cui ritirarsi, il luogo che non c'entra nulla con la città, dove scollegarsi, dove tagliarsi fuori. Ecco, questa rappresentazione della montagna e delle aree interne è molto funzionale ad alcune categorie di persone che effettivamente per alcuni giorni all'anno, alla settimana o al mese vanno in questi luoghi e cercano la postazione, il luogo appunto riqualificato per le proprie attività anche a distanza, oppure si escludono per alcuni giorni all'anno o alla settimana perché questo è funzionale poi a vivere un'altra dimensione lavorativa eccetera urbana. Ecco, noi quello che abbiamo visto invece è che c'è una ritematizzazione delle aree interne e montane non come luoghi separati dalla città, ma come luoghi dove sempre più persone vogliono vivere, magari in maniera definitiva, magari in maniera temporanea, vogliono instaurare relazioni con questi territori in modo critico, quindi non fruirne da turisti inconsapevoli, da frequentatori occasionali, ma vogliono instaurare rapporti innanzitutto con chi è rimasto. E quindi vediamo le alleanze tra i nuovi abitanti e i restanti, le persone, no, che sono rimaste in questi territori, che abbiamo scoperto essere sempre di più non solo gli anziani, che rappresentano comunque sicuramente un patrimonio, insomma, importante di conoscenze e sociale, ma i giovani. Come riabitare l'Italia, e poi fermami tu quando vuoi, perché sennò non voglio parlare tutto il tempo. Come riabitare l'Italia, abbiamo condotto un anno e mezzo fa una rilevazione nazionale statisticamente significativa sui giovani, un campione di giovani residenti nelle aree interne italiane, trovate tutto online e uscirà un altro libretto dei nostri a gennaio, e abbiamo rilevato come in piena pandemia, perché questa rilevazione l'abbiamo fatta a cavallo tra la fine del 20 e l'inizio del 21, i giovani in grandissima parte, 18-39 anni, abbiano espresso un desiderio di rimanere nei propri territori, di restare se ci sono delle opportunità, desiderio che si è corroborato dell'esperienza fatta durante appunto il lockdown e la pandemia, esperienza che per converso molti di noi in città hanno vissuto drammaticamente per la situazione urbano-metropolitana, per gli alloggi, per come insomma siamo stati molti di noi costretti a viverla. Nelle aree interne questi ragazzi e ragazze ci hanno raccontato invece di una pandemia e in generale di una qualità della vita diverse, e quindi del desiderio forte di rimanere, ma non di rimanere ovviamente tagliati fuori, di rimanere collegati con delle possibilità non solo di smart working, ma di relazione con l'ambito urbano metropolitano. Quindi adesso io mi fermerei su questo. Ci sono una serie di iniziative, di pubblicazioni, di ricerche che abbiamo fatto in questi tre anni di vita dell'associazione, che puntano effettivamente l'attenzione sulle interconnessioni, e luoghi come Leoncavallo, luoghi come questi sono in quest'ottica evidentemente dei punti di cucitura, di interconnessione fondamentali. Adesso vediamo in questi giorni con questo evento della Terra Trema, ma più in generale di raccordo e rapporto anche potenziale, perché poi appunto, come si diceva, certi ragionamenti iniziano e si fanno in relazione a degli eventi, ma poi ovviamente vanno portati avanti nella pratica quotidiana, delle possibilità di interconnessione, quindi tra l'ambito metropolitano e le aree interne rurali e montane, per chi ci già vive lì, per chi ci vuole andare a vivere, per chi si muove tra questi territori. Io mi fermo qua intanto, poi andiamo. Buonasera. Dunque io partirei appunto dalla crisi del Covid, perché è lì che a un certo punto, molto velocemente e contemporaneamente al fallimento dei famosi padiglioni Primula, Stefano Boeri salta subito sul cavallo della crisi urbana, della pandemia e del lockdown, per dire: andiamo tutti a vivere nei borghi, dobbiamo fare dobbiamo istituire una nuova forma di vita interurbana basata su un arcipelago di borghi e città interconnesse. E immediatamente, appunto, dopo questa sua, naturalmente come ogni cosa che dice Stefano Boeri, piuttosto che Carlo Ratti, che ha parlato di turismo lento, oppure Renzo Piano, eccetera, eccetera, i giornali hanno cavalcato l'onda di questi slogan per un anno o due, e poi in qualche modo queste buttate sono state recepite nel PNRR, e tradotte in una serie di fondi a pioggia ricaduti più o meno su questi territori. E ora, naturalmente l'idea, prendendo alla lettera le idee manifestate a Boeri, si tratterebbe di abitanti a short term o middle term che vanno lì iperconnessi, felici, e però si prendono anche cura dei boschi e poi elaborano cose creative e meravigliose. Ma al di là di queste pensate, diciamo, che lascia il tempo che trovano. In realtà la cosa grave è che questi fondi PNRR si sono innestati su una politica che già da tempo cercava di focalizzare l'attenzione del turismo su queste forme di turismo sostenibile, che erano fondate su un'idea anche quella totalmente baltana e fasulla, cioè che il problema dell'overtourism, ormai acclarato e riconoscibile da chiunque sia passato un giorno a Venezia, a Firenze o in altre città di questo tipo, si poteva semplicemente risolvere allargando le maglie del turismo sul territorio e quindi secondo loro disperdendo il turismo appunto nei piccoli borghi, nelle vigne, nelle campagne, nei territori più remoti. E naturalmente, e quindi secondo questa ideologia, diluendolo, il che è impossibile perché il turismo universale di massa si può estendere, è un fenomeno che cresce sempre, si può estendere ma non si diluisce, cioè, i milioni di cinesi che tutti cercano di contendersi quando ritorneranno a viaggiare per venire in Italia, che si contenderanno tra le varie città d'Europa e poi tra le varie località italiane. Comunque nessuno li convincerà mai a saltare Venezia, gli Uffizi e il Colosseo per andare solo nei territori, semplicemente al limite aggiungeranno altre tappe ed estenderanno le loro auto. Diciamo, per accogliere questi turisti, le politiche che tendono a accogliere questi flussi turistici che dovrebbero in teoria diluire l'overtourism, si traducono in autostrade, linee veloci dei treni, per esempio, tanto per fare un esempio, Franceschini, uno degli ultimi suoi progetti che spero non vedrà mai la luce, era quello di collegare direttamente Roma con Pompei, perché naturalmente sono due grandi attrattori e quindi bisogna portare i turisti immediatamente anche a Pompei, non solo a Napoli, non farli passare. Però appunto tendenzialmente anche quando si tratta di attrarre i turisti in Abruzzo, in Umbria, in luoghi più difficili, montani, eccetera, eccetera, la via del turismo cosiddetto sostenibile è insostenibile, cioè quella di infrastrutturare pesantemente, moltiplicare le strutture di accoglienza e impattare in modo feroce sul territorio. Quindi diciamo così, come sempre il turismo, il PNRR ha intercettato questa retorica post-Covid, la retorica del turismo sostenibile ha intrecciati e ha allocato una serie di soldi che potrebbero essere allocati a altre cose normali, cioè come il welfare state, le strutture sanitarie che sono state cancellate dai paesi montani, dai paesi interni, dai paesi collinari, da tutti quei posti, le scuole che sono state cancellate, raggruppate, oppure non so, le poste, cioè tutta una serie di servizi che sono stati sempre più chiusi, accentrati, invece ha allocato una serie di soldi su progetti che cadono in maniera più o meno casuale inseguendo gli slogan dell'Unione Europea, i progetti sull'inclusività, che però non si capisce chi dovrebbe includere, progetti appunto sull'accoglienza turistica, progetti sulla solidarietà, la coesione sociale, alla fine progetti che soprattutto non dialogano con l'ordinario, cioè fondi straordinari che finanziano progetti pensati da persone più furbe o più informate o più capaci di leggere i bandi, banalmente, i bandi europei, eccetera, eccetera, e che non vanno a alimentare però quelle strutture normali, ordinarie, civili, che rendono abitabile un posto. Quindi, e questa cosa dipende da una politica, diciamo, non solo italiana, ma anche, diciamo, più generale, globale, in cui gli stati che nel dopoguerra, diciamo dal secondo dopoguerra in poi, avevano in qualche maniera sviluppato un sistema di governo per cui redistribuivano sul territorio in maniera il più possibile uniforme, naturalmente con milioni di errori, ingiustizie, per carità, però la tendenza era questa: gli stati avevano il compito di redistribuire le risorse sul territorio, quindi anche se diciamo c'erano punti più ricchi e punti più poveri, punti che producevano più ricchezza e punti che invece arrancavano, l'idea era quella di appunto costruire occasioni di produzione, di vita e di sistema, e soprattutto appunto infrastrutture culturali, scolastiche, sanitarie, eccetera, eccetera, ovunque. Questo sistema è stato poi smantellato grazie alla solita diciamo politica sempre più ferocemente neoliberista, che non solo in generale ha tagliato il welfare ovunque, ma ha deciso di accentrare tutti i fondi e finanziamenti solo nei cosiddetti grandi attrattori, nelle grandi città oppure nei distretti produttivi più competitivi, che potessero competere a livello globale per attrarre soprattutto poi i fondi privati. Quindi come dice Saskia Sassen, Neil Brenner, come dice Mazzucato, cioè i privati non arrivano, i famosi fondi privati non arrivano per loro merito, per loro intelligenza su dei territori, arrivano dove in genere investe lo Stato, e lo Stato negli ultimi 20-30 anni ha investito solo in alcuni grandi attrattori. Dunque, nel caso dello Stato italiano, essenzialmente negli ultimi almeno 10-15 anni ha investito tutto su Milano, a scapito di tutti i territori interni e naturalmente di tutto il sud. Oppure non so, se si va a vedere altri tipi di altre forme di forme più diluite di welfare, per esempio lo Stato investe sugli asili in Emilia Romagna 10 volte in più di quanto investa sugli asili in Calabria, per intendersi, e questo grazie a dei sistemi valutativi per lo più incomprensibili, comunque oscuri, opachi. Ecco, allora questa, diciamo, quindi l'operazione è stata così: prima svuotiamo di tutti i servizi e di tutte le capacità produttive le aree marginali, interne, come le vogliamo chiamare, le rendiamo inabitabili, la gente le svuota, perché a un certo punto, se non c'è più un'economia che si sostiene e non ci sono più quel minimo di servizi che le rendono abitabili, giustamente poi a un certo punto i giovani tendono ad andarsene e si svuotano, restano solo gli anziani, eccetera, eccetera. Sappiamo cosa succede. Dopodiché, quando non c'è più un motivo di abitarli, si dice che l'unica chance che resta a questi territori è il turismo. È il turismo, è il turismo sostenibile, tutte queste cose qua. E a quel punto si crea una economia che però è da un lato violentissima, dall'altro anche fasulla, perché in realtà non, questi posti non vengono ripopolati, non si crea un ripopolamento fatto di persone che restano, al limite si crea un ripopolamento stagionale fatto da persone che appunto lavorano in maniera subordinata, precaria, perché notoriamente i lavori legati al turismo e all'accoglienza sono assolutamente poco remunerativi, oppure sono gli imprenditori, quei pochissimi imprenditori che riescono a raccogliere questa ricchezza concentrata, ma che poi alla fine neanche loro vivono lì solo durante la stagione turistica, poi nel resto dell'anno vanno nelle grandi città oppure a loro volta fanno i turisti, fanno i grandi turisti. Ecco, allora questo sistema è chiaramente un sistema malato e da rigettare soprattutto ideologicamente, prima ancora di metterlo in discussione sulla questione specifica dei fondi. Cioè, ideologicamente tutto ciò è inaccettabile e assolutamente crea dei luoghi non, comunque non desiderabili, se non per eventualmente appunto il turista di passaggio, quello a medio termine, però insomma non, tutto questo non ha molto senso. A me piace molto, ho letto da poco un libro scritto ad urbanisti italiani bravissimi, fiorentini, che si chiamano Ilaria Agostino e Daniele Vallettieri. Non l'ho portato perché non l'ho perso in mezzo ai miei scaffali, però che racconta il caso di una città francese che negli ultimi 50 anni, cioè dagli anni 60 in poi, invece ha individuato un destino completamente diverso da questo, da questa bivio da cui sembra che non si possa mai uscire, cioè o turismo o abbandono. Cioè che invece era questa è una cittadina di origine medievale del sud della Francia, dell'area di Bordeaux, che però non ha una economia del vino, cioè un po' escluso un pezzo che non è tra quelli più quotati dell'economia del vino di Bordeaux, che in questo momento naturalmente appunto è un'economia contemporaneamente sia produttiva che turistica in modi diversi. Invece lì era un po' rimasto isolato, quindi si era svuotata, come è successo anche da noi classicamente in tutti questi posti. E però un gruppo di abitanti, che si chiama Saint-Hilaire, un gruppo di abitanti giovani ha iniziato a un certo punto a restaurare un po' per caso, un po' per studi, intercettando un piccolo fondo eccetera eccetera, ha iniziato a restaurare un pezzo poi un altro di questi, non so, un'abbazia, un convento, un palazzo del podestà, non so, e di questo paese che era stato svuotato perché la gente poi lo riteneva scomodo da abitare, cioè queste case senza riscaldamento, non so. E, però a differenza di altri luoghi, di altre città che sono state invece iperturistificate, invece puntare sul turismo ha inserito dentro questi palazzi bellissimi medievali, storici, ha inserito funzioni civiche, quindi una scuola, la biblioteca, il centro civico, e ha iniziato anche a creare una specie di laboratorio di conoscenza sia più specifica del restauro, sia urbanistica, e ha ricominciato, diciamo, ed è diventato attrattore non appunto di turisti ma di abitanti, è riuscito a far tornare la gente a vivere questi luoghi, a vivere anche in un modo produttivo, diciamo, si è inventato una serie di piccole economie, fino a che poi hanno, diciamo, generazione su generazione hanno anche preso il potere, sono diventati sindaci eccetera eccetera, e hanno allargato questa forma di conoscenza proprio di vita anche a un territorio leggermente più basso. Ecco, questo esempio qui è in qualche modo la dimostrazione anche che non è detto affatto che diciamo, l'idea di conservare un patrimonio culturale o di interessarsi anche semplicemente appunto alla parte storica interessante del nostro patrimonio paesistico si debba tradurre forzatamente in una forma di marketing turistico e debba abbandonare per forza, come fa l'UNESCO, i territori poi alla devastazione turistica. In realtà è possibilissimo conciliare queste due cose e trasformarle in un ripopolamento produttivo. Allora, quello che secondo me è importantissimo è combattere per questo, perché sostanzialmente i fondi, i finanziamenti, diciamo, che lo Stato eroga non siano a favore di progetti turistici, ma neanche di progetti di finta innovazione sociale e culturale, ma che vengano allocati invece a, diciamo, una ripubblicizzazione del welfare e dell'economia, perché è solo in questo modo che poi dopo si può rendere eventualmente, diciamo, si può costruire una partecipazione tale per cui uno dice: questo progetto mi va bene, non mi va bene, passa la TAV. No, la TAV non è un, cioè è solo su quella base che si può costruire un'opposizione. Quando invece i progetti vengono finanziati appunto all'europea, cioè per forme di bandi e non di pianificazioni in qualche maniera, non di costruzione pubblica della progettazione del territorio, inevitabilmente non si trovano più neanche i responsabili, cioè non si trova più l'interlocuzione sufficiente per poter influire e costruire insieme un percorso, cioè non è possibile fare neanche della coprogettazione reale sui territori se non si passa attraverso una ripubblicizzazione del territorio e dei suoi servizi. Adesso tocca a voi, eh. Vieni Antonio. Ok, ciao a tutti e tutte, io mi volevo un attimo ricollegare al discorso che faceva Paola all'inizio sulla questione delle narrazioni tossiche su questi territori. Io mi presento, mi chiamo Antonio, vengo dalla Valle Peligna, Valle Subequana in Abruzzo. Tra l'altro stasera c'è una vignaiola della Valle Peligna, faccio un po' di promozione del territorio. C'è una vignaiola della Valle Peligna, la Terra Trema. Ciao, per farvi, immagino che molti di voi non conoscano il mio territorio, quindi per farvi capire un attimo quanto sia considerato marginale e sfigato come area, un po' di anni fa eravamo a un campeggio in cui c'erano i NoTap che erano saliti dal Salento, da San Foca, dal Salento, e parlando con un ragazzo di loro, a un certo punto lui dice, gli chiediamo da dove viene, come si chiama il tuo paese, no? E lui dice, no vabbè, ma sei un paesino piccolo, non lo conosci, sono 1500, 2000 persone, non lo conoscete sicuramente. Io che ero con altri ragazzi abruzzesi della mia città, del mio paese, ci guardiamo in faccia e diciamo, culo, 1500, 2000 persone, la metropoli per noi, cioè abbiamo paese da 300 persone, a San Benedetto in Perilis ce ne abitano 40, a Castrovalva che sta a 20 km da casa mia ci abitano 10 persone, quindi farvi capire il tenore del territorio. E su questi territori è stata costruita comunque negli ultimi anni una forte narrazione, come raccontavano bene prima di me, una narrazione un po' tossica, perché molto improntata da un lato sul discorso di questo mondo ideale da abitare, dove è bellissimo perché viviamo una vita bucolica, dove respiriamo l'aria pura, dove viviamo in comunità. Le comunità ci stanno, ma sono da costruire. E chi lavora sul territorio, io dal 2013 sono tornato a casa a Sulmona, e in contrada, in realtà una contrada vicino a Sulmona, e lo so che significa cercare di creare, di mettere in piedi una comunità quando la tua comunità emigra. Lo raccontavo prima a Paolo, noi abbiamo un problema da un bel po' di anni a sta parte, mettiamo su ciclicamente un collettivo che si occupa di tematiche ambientali, perché da noi ci passa il gasdotto SNAM che è direttamente collegato al TAP del Brindisi Minervio e passa lungo tutta la dorsale appenninica, tra cui l'Abruzzo Aquilano dove viviamo noi, a Sulmona dove siamo noi verrà costruito un gasdotto di compressione spinta del gas. Quindi lavoriamo su tematiche ambientali, lavoriamo su tematiche di genere in relazione con la provincia, che non è scontato come tematica, insomma, lavorarci. Un conto è lavorare con tematiche di genere in una metropoli dove comunque c'è una certa sensibilità sul tema, ma noi ci lavoriamo al bar, che non è proprio la stessa cosa, insomma. Questo per dire che non è che sia proprio così scontato che un paese è il posto migliore del mondo dove vivere, e chi ci abita lo sa. E Vito Teti, che è questo antropologo. Il nostro socio. Sì, appunto, c'è l'antropologo, giusto? Sì, ok. L'ha descritto bene. Di quanto tornare a vivere in un paese non sia né un atto di coraggio e né, diciamo così, una martirizzazione, sia semplicemente qualcosa che uno si sente di fare e lo fa. con tutte le limitazioni del caso. Un altro aspetto di questa narrazione tossica, è sicuramente, questo sul paese sicuramente, cioè sull'idillio del paese è sicuramente una di queste. Un altro aspetto della narrazione tossica che si fa è quella legata alla arretratezza, diciamo, culturale e sotto altri aspetti dei territori marginali, delle terre alte. Come se fosse, diciamo, questi fossero dei territori, appunto, che essendo marginali sono arretrati di conseguenza, e il binomio sia marginalizzazione e arretratezza. Nel mio territorio, tra la Valle Subequana e la Valle Peligna, e in generale un po' tutto l'Abruzzo Aquilano, quindi parlo solo della mia esperienza diretta, nel raggio di 100 km che c'ho intorno a casa, sono nate dal 2013, in cui io sono tornato a casa, ho visto nascere negli ultimi anni tantissime esperienze. Riabitare l'Italia è stata a Galliano Terno, che è una di queste, in cui si parla per esempio di realizzare comunità energetiche, cioè che i cittadini e le cittadine dei paesi generino da soli la propria energia per autoconsumo, per non sottostare a delle logiche di mercato. Si parla di autoproduzione alimentare. Come facciamo, visto che chi abita a Tione degli Abruzzi ha un supermercato a 60 km di distanza, come fa ad approvvigionarsi materialmente, no? Dal punto di vista alimentare, quindi autoproduzione in questo senso. Cioè, si inizia a discutere tutta una serie di tematiche e si fanno in maniera diversa da Galliano Terno a Fontecchio, che sta a 20 km, a San Benedetto in Perillis, a Pesco Costanzo, dove magari c'è, o in generale la Valle Subequana, dove c'è il problema delle mafie dei pascoli. Si inizia a fare tutta una serie di ragionamenti sulla tutela del territorio, la tutela ambientale, l'autoproduzione di energia, l'autoproduzione alimentare, che stanno oltre, cioè sono avanguardistiche. Quando è scoppiata la guerra in Ucraina, da me sentivi parlare di autoproduzione energetica già da un paio d'anni, ed è un tema che è diventato subito attuale. Lo stesso PNRR da noi in Europa, che è arrivata negli anni 50, cioè nel mio territorio negli anni 50, il PNRR si chiamava Obiettivo 1, che erano questi fondi che davano lo Stato italiano per i territori marginali, per investire in opere di sostentamento e recupero dei territori. E con i fondi Obiettivo 1 nel mio territorio è stata fatta un'area industriale, ma non è stata fatta un'area industriale per permettere alle persone del territorio di emanciparsi e quindi di fare impresa, se vogliamo. È stata fatta un'area industriale che ha di fatto invitato tanti imprenditori esterni. È venuta la Fiat, è venuta la Parmalat, la Tonolli, l'ACE, che produceva componenti chimici, tutte aziende del nord, la Lastra, la di Bergamo, erano tutte aziende del nord che sono state invitate nei nostri territori con finanziamenti a pioggia, e nel momento in cui sono finiti hanno dislocato le produzioni e sono state altrove. Cioè, noi negli anni 60, la Valle Peligna, il mio territorio, negli anni 60 era la Polonia, quello che oggi è la Polonia, quello che oggi è il Bangladesh, dove FCA prende, disloca le produzioni perché costano di meno. Cioè, noi eravamo quei territori là 40-50 anni fa. Quindi nel bene e nel male eravamo avanguardia sotto tutti i punti di vista. Quindi è una cosa su cui ci interroghiamo spesso quando ne riflettiamo, diciamo, giù dalle nostre parti. Ma l'ho detto così, sembra tipo noi banca di Montesilvano. Ne riflettiamo spesso sul livello di narrazione. E quindi io personalmente sulle pagine della Terra Trema, che ringrazio per aver ospitato spesso dei contributi, altre ragazze e ragazze della mia zona che comunque scrivono e documentano quello che succede dalle nostre parti, cerchiamo un po' di sganciarci da questa narrazione, e secondo me è un valore importante, fondamentale. Ci tenevo a ribadirlo solo in assemblea, insomma. Poi Gallino ha scritto pagine straordinarie su come gli industriali del nord facessero la fine. Sì, di fatto il numero industriale della mia zona ormai è abbandonato, perché dicevo che la zona industriale del mio territorio, appena sono finiti i fondi, è stata abbandonata, cioè al momento non c'è più niente, cioè, infatti è una zona industriale fantastica, perché una certa sono finiti i fondi. Dico, su prima cosa, sul mio corpo, sono lì. Non c'entra niente, non si fa fare chiacchierata di noi. Quello che ha creato, cioè la persona di riferimento che all'epoca creò il nucleo industriale in Valle Peligna, quando ha fatto questa cosa, cioè quando è stato messo in condizione di essere presidente del nucleo industriale, cioè aveva 25 anni ed erano scarsi gli anni 60, ma metà anni 60 diciamo. E una volta l'ho intervistato, tra le altre cose stavo scrivendo un articolo sul nucleo industriale, quindi l'ho intervistato per avere una testimonianza su questa esperienza, e dissi: ma com'è possibile che un ragazzo di 25 anni viene messo ad essere presidente di un nucleo industriale? Cioè, se ci penso, per me è assurdo, io ho 34 anni, a 25 anni la mia generazione eravamo dei ragazzetti, ma non finivano l'università. E lui, sorridendo, mi ha detto: figlio mio, all'epoca c'era la DC. Bel cazzo di schifo che avete fatto, cioè, avete creato praticamente un nucleo industriale fantasma che oggi non funziona, e per farlo avete... Non ha mai funzionato? Ha funzionato fin quando lo Stato gli ha dato i soldi, cioè fin quando hanno sovvenzionato, perché... E quante persone lavoravano? C'erano... quante persone non lo so, però c'erano 100 attività industriali. Un po' lavoravano? Sì, lavoravano, però lavoravano sovvenzionati, perché quelli che assumevano erano... beneficiavano di tanti sgravi fiscali. No, allora, io rispetto a questa cosa qua, quello che mi interessa dire, perché per sembra, è che assolutamente è verissimo, cioè che è noto che appunto anche tutti i soldi a Cassa del Mezzogiorno, eccetera, eccetera, venivano poi appunto rapinati. Ma veramente, ripeto, cioè, quel libro di Gallino, La scomparsa di tale industria, racconta benissimo come in realtà gli industriali del nord venissero, proprio rapinassero i fondi, inquinavano i territori, eccetera, eccetera, facevano tutte le cose, però e poi diciamo sparivano, non creavano una reale cultura industriale, tra l'altro preferivano magari trattare i territori difficili più magari con le mafie che con diciamo un tessuto civile delle città. Però è vero anche che ancora la differenza tra allora e adesso, tra quello che creava questo tipo di diciamo web di finanziamento cosiddetto assistenziale e quello che succede oggi, e che comunque magari per 20 anni, adesso io non lo so, è possibile che però un certo diciamo numero di persone abbia avuto un lavoro decente, sensato, diciamo così, che, mentre quello che produce oggi un fondo, uno di questi bandi PNRR col progettino di finta inclusività sociale, probabilmente probabilmente non produce neanche mezzo posto di lavoro. Cioè, questo è quello che voglio dire, oppure produce un tipo di sviluppo ancora più nocivo. Pensiamo per esempio al turismo alle montagne. Adesso cioè, ci sono le Olimpiadi di Milano Cortina, stanno praticamente spianando intere vallate, vanno con le ruspe sui ghiacciai, che notoriamente sono già in crisi, eccetera, eccetera. Ma di tutto questo, economicamente, sulle persone che abbiano il territorio, probabilmente ricade un decimo di quello che ricadeva allora sulle persone. Poi, la ricchezza viene intercettata da un gruppo di imprenditori molto molto molto più ristretto di quello che c'era allora, cioè comunque esiste questa differenza abissale tra quello che viene adesso erogato in questa forma e quello che veniva, che oltretutto, oltre a queste forme magari sicuramente di rapina di sviluppo industriale magari fatta a caso malissimo, produceva però comunque appunto, è architettura civile, servizi, poste, auto, che adesso assolutamente. No, questo per dire semplicemente che è verissimo, questa cosa, stessa cosa viene fatta anche a livello, diciamo, il parallelo viene spontaneo, dice fondi allora, fondi ora, spesi male allora, spesi male ora, però in qualche maniera ora è peggio. C'è il trucco dei tre carte, i tre microfoni. Io vedo da una parte, anche col lavoro che facciamo con l'associazione, sicuramente vediamo queste dinamiche. Infatti, appunto, dicevo, prendiamo posizione critica nei confronti del bando Borghi, che assolutamente ha questo tipo di approccio che abbiamo già citato, e anche molta progettazione europea è improntata all'approccio che stavi definendo. E dall'altro lato però quello che vediamo, come cercavo di dire prima, è anche una certa effervescenza rispetto agli immaginari, per cui appunto chi ha parlato adesso, o intanto la Valle Subequana, per inciso ci stiamo lavorando per una nuova progettualità proprio con Riabitare l'Italia, con Fontecchio, con la sindaca Sabina Ciancone, quindi delle vostre parti, perché appunto abbiamo intercettato in questi anni una effervescenza culturale, diciamo così, anche una capacità di immaginare questi territori che, quando vigevano altre dinamiche di, per esempio, allocazione dei servizi e delle risorse dall'alto gestiti dallo Stato, non c'era. Diciamo che un immaginario fortemente ancorato alla città, a quello che si poteva trovare la città, si accompagnava in quel periodo agli interventi assistenziali dello Stato. Cioè, noi abbiamo comunque visto uno svuotamento delle aree interne e montane, che in parte era legato a delle dinamiche di chiusura dei servizi, della produzione, però in parte era anche una forte componente era legata alla fascino e all'attrattività che esercitava la dimensione urbano metropolitana nei confronti delle persone, soprattutto giovani, che vivevano quei territori. Un fascino che oggi si sente molto meno. Cioè, sicuramente da una parte non c'è l'idea, la tentazione di ritirarsi nel piccolo paese, tagliare i ponti con la città, però quando noi parliamo con le ragazze, con i ragazzi, facciamo le indagini, facciamo il lavoro sul territorio, vediamo che c'è stato un passaggio, una maturazione, un passaggio generazionale, per cui le ragazze e i ragazzi adesso su questi territori stanno sviluppando un immaginario diverso rispetto al proprio contesto, non ancillare rispetto alla dimensione metropolitana. Cioè, comunque, pur nell'essere tagliati fuori, marginalizzati, nel vivere una situazione in qualche modo remota per quello che riguarda i loro territori, sviluppano spesso delle diciamo proposte alternative rispetto alla trasformazione del territorio, ma anche dal punto di vista culturale, di innovazione sociale, che sono simili, paragonabili come forza creativa a quella che 30-40 anni fa si sviluppava in altri luoghi marginali, periferici o periferizzati, per esempio all'interno della metropoli, perché comunque quando gli spazi sociali, così torniamo anche al luogo dove siamo, iniziano a essere occupati nei primi anni 70, era perché dentro questi spazi si trovava una dimensione di creatività che nella città, nel core urbano o nella città densa della Milano davvero o quant'altro, non si poteva, ovviamente non si voleva trovare. Ecco, oggi noi quello che cerchiamo di intuire, ci sembra di intuire con Vito Detti, con gli altri colleghi con cui ci relazioniamo, è che nelle aree interne, grazie anche a una diversa rarefazione sociale, diciamo, anche al fatto che c'è più spazio creato dalle dinamiche di cui si diceva, che sono dinamiche critiche, però questa maggiore disponibilità di spazio, di risorse ambientali che comunque si possono recuperare, dà luogo a dei processi innovativi potenzialmente incredibili, come quelli che appunto 30-40 anni fa si sono sviluppati nei contesti delle grandi metropoli europee. Ecco, questo secondo me ce dobbiamo considerarlo, perché c'è un enorme potenziale che soprattutto i giovani restanti, per usare appunto il neologismo ormai coniato alcuni anni fa da Vito Teti, la restanza, cioè un rimanere attivo, non residuale, marginale, un rimanere attivo nei propri territori. Certo, è un rimanere che comporta un tenere assieme, diciamo, dei sogni e dei bisogni, delle aspirazioni e dei dati materiali. Quando abbiamo fatto la ricerca un anno e mezzo fa sui giovani restanti, ci hanno detto: perché restare nelle aree interne? Perché c'è una migliore qualità della vita, perché ci sono delle relazioni che possiamo gestire, degli spazi di innovazione, però anche perché la vita ci costa meno, la nonna mi ha lasciato in eredità un pezzetto di casa, posso fare l'orto, cioè comunque le due dimensioni che chi vive quei territori conosce bene, cioè i sogni e i bisogni, cioè la dimensione materiale, però anche l'immaginario. E non voglio fare salti voli pindarici, però all'indietro o all'avanti, ma anche ciò che ha mosso molta parte del movimento dell'autogestione, dell'appropriazione degli spazi come questi, cercava di tenere assieme quei sogni e quei bisogni, cioè una dimensione materiale di soddisfacimento di bisogni delle persone con una dimensione ideale di immaginare, adesso poi al di là del fatto di come questi immaginari si configurino da un punto di vista politico, e sicuramente la consapevolezza politica è tutto un altro discorso, perché quella non la troviamo molto. Però ecco, questo era un elemento che volevo dire. E l'altra questione è i territori in cui oggi vivono questi giovani e queste giovani, e verso i quali sempre più persone cercano comunque di muoversi anche dopo la pandemia, ma anche prima che appunto Boeri o altri facesse pubblicità ai borghi, no? Questa idea di spostamento verso la montagna, il fenomeno dei nuovi montanari con l'associazione di Svelli a Torino, abbiamo indagato già da almeno 15 anni, quindi è qualcosa che c'è, che si sta già muovendo da tempo nel paese. Allora, questo tipo di rappresentazioni, di immaginari, vanno a toccare dei territori che fino a poco tempo fa potevano giustamente essere rappresentati anche come residuali rispetto al sistema produttivo, rispetto al capitalismo che si è concentrato nelle città dopo il secondo dopoguerra in poi, ma oggi sono i luoghi che offrono invece una parte fondamentale delle risorse di cui ha bisogno il sistema economico, di cui ha bisogno l'intera società. Parlavamo prima di comunità energetiche, la produzione energetica innanzitutto si fa e si può fare in quei territori, le risorse materiali fondamentali per la nostra sussistenza, che oggi appunto qui anche il cibo, il vino, la produzione appunto legata a questi territori viene lì, viene da lì, quindi c'è una dimensione fondamentale che porterà sempre di più questi territori a essere oggetto anche di contese e di conflitto. Quello che noi cerchiamo anche di mettere in luce con queste analisi, con questi dati, è che quelle che sono oggi ancora in parte trattate, considerate come aree marginali, però in tempi ragionevolmente brevi entreranno in una centrifuga da cui il bando Borghi è la cosa minore, per la quale il bando Borghi è la cosa minore, perché gli interessi di sfruttamento di questi territori sono enormi. E uno tra tutti, pensiamo anche solo e semplicemente alla questione climatica, per quello che riguarda, come sappiamo, l'impatto dell'innalzamento delle temperature sulla pianura padana, per rimanere nel nostro territorio della metromontagna del nord-nord-ovest. Sostanzialmente questi sono i territori verso i quali già oggi e nei prossimi 5-10 anni molti di noi vorranno o dovranno spostarsi per alcuni mesi all'anno, a partire da anziani, persone con patologie respiratorie, bambini e poi in generale chiunque potrà. Rappresentano una risorsa per almeno alcuni mesi all'anno per non dover letteralmente morire di caldo e di inquinamento nelle aree metropolitane. Quindi risorse energetiche, risorse in termini di produzione di beni, risorse in termini di spazio, di qualità dell'aria. Bene, questo comunque è uno degli ambiti sui quali fondamentalmente si giocherà anche una conflittualità sociale e politica. Già si gioca adesso, ma si giocherà nei prossimi anni. Quindi anche una consapevolezza, e chiudo su questo, della necessità di fare alleanze metromontane, cioè di tenere assieme le esigenze, i sogni e i bisogni di chi vive la metropoli, la città, con quelli di chi è rimasto in quei territori, per garantire anche che appunto invece di avere queste forme di speculazione di cui dicevamo, di appropriazione, che il land grabbing poi arriva e arriverà anche da noi, ci sia una condivisione, una redistribuzione di queste risorse che diventano fondamentali. Insomma, questo mi sembra che sia un elemento su cui si debba tenere l'attenzione. Territori contesi e conflitto. Vedo. Ciao a tutti e a tutte, io sono Matteo. Da un po' di anni faccio a tempo pieno il contadino a Chiomonte, in Val di Susa. Sono vari punti che vorrei toccare, cercherò di non uscire fuori tema, di essere sintetico. Come esperienza produttiva siamo tutti partecipanti a questo progetto, che è Grangia Farm, a Chiomonte siamo tutti forestieri, siamo tutti arrivati da altre parti d'Italia perché attivisti, perché voglio fare qualcosa di diverso, e ci siamo messi in discussione prima di tutto sul fatto di non essere noi colonizzatori di nuovi territori con la scusa di esserla per altri motivi, e quindi abbiamo da una parte rifiutato finanziamenti, dall'altro questo anni fa, dall'altro preso tutti gli aspetti, preso tutti gli aspetti della vita di montagna, quindi ci siamo anche accollati le capre ben volentieri, e tutto quello da poco, da qualche anno facciamo il grano, il mais, tutto per autoconsumo. Fondamentalmente lavoriamo principalmente a mano, abbiamo rifiutato di meccanizzare eccessivamente, di entrare coi trattori da dove non si poteva entrare, e quindi di avere un approccio conservativo a quello che era un territorio che noi dovevamo scoprire, imparare a abitarci, abitare e produrre quello che poi veniva dalla terra. Stiamo comunque rischiando di essere comunque qualcosa di diverso, di innovativo, però visto comunque male, perché per esempio, come Paolo ci scherza spesso, vendiamo il vino a più di tutti gli altri produttori, che sono 4 della zona, oppure per esempio riusciamo con il recupero estremo, andando a prendere le cose più rugginose, recuperandolo, riusciamo a mettere insieme anche col numero che siamo spesso, anche grazie a volontari, persone che vengono a darci una mano, riusciamo a recuperare zone che altrimenti sarebbero irrecuperabili. Quindi da lì il discorso che facciamo sicuramente un bel lavoro, però c'è questa grande coesione con il territorio, nel senso che gli abitanti di Chiomonte e di altre zone dell'Alta Val di Susa hanno in qualche modo scelto di farsi fare quello scempio che stanno facendo, nel senso che erano d'accordo con l'amministrazione che gli ha venduto grandi progetti di, appunto di soldi per rifare le vigne, rifare le strade, soldi che alla fine negli ultimi tempi stanno arrivando veicolati da Telte, che è la società appaltatrice del TAV, stanno arrivando alla regione, che li redestina tutte le cose che vengono richieste dai comuni della valle da 10, 15, 20 anni. Quindi opere di messa in sicurezza del territorio, opere di, come si dice, rigenerazione montana, facendo su vigne che distruggono tutto il panorama di terrazzamenti per fare l'accesso al trattore, rendere l'agricoltura più accessibile a finanziamenti esterni, a persone che vengono a lavorare dall'esterno più comodamente, e quindi fondamentalmente questi soldi adesso stanno arrivando. Molti comuni erano assolutamente in attesa, e per assurdo si crea una nuova fase di conflitto, perché con le stesse persone che in qualche modo erano come noi, contrarie all'opera, in qualche modo vivevano e lavoravano contrariamente all'opera in quel territorio, ora che arrivano i soldi diventiamo in qualche modo, appunto, cioè siamo sotto ricatto, no, noi diventiamo proprio quelli brutti, perché rischiamo pure di sabotare tutta questa situazione, tutti questi soldi che arriveranno per far vigne, per fare stradine, per fare tutte cose in zone che tra l'altro noi stiamo già lavorando e vivendo da anni, quindi sarà abbastanza divertente, diciamo. Però di base non avranno lo strumento dell'esproprio per questo tipo di progetti compensativi, quindi non capiamo bene dove si va a parare con questa cosa. Cerchiamo nella valle di trovare un po' di sintonia, perché col movimento, appunto, si è sempre detto, si rifiuta il ricatto di compensazioni, tanto che, come avrete saputo, Pussoleno, la sindaca, ha dato le dimissioni per non cedere a questo ricatto, comunque provocando una nuova spaccatura nel movimento, perché purtroppo il movimento, cioè purtroppo, per fortuna, il movimento è un movimento popolare, e quindi le persone della valle cioè si dividono fra chi cede a questo ricatto, possiamo dire, io sto semplificando molto, molto, però il problema adesso reale è per noi e per tante altre persone che come noi lavorano la terra e si prendono cura di quello, questo territorio che in qualche modo per noi poteva essere qualsiasi territorio, abbiamo scelto questo territorio perché era un territorio in conflitto e quindi per noi adesso la sfida, tra virgolette, è proprio produrre qualcosa che rimane e quindi di provare a strutturare tutta una attività sempre sulla terra, perché quello facciamo, che vada anche oltre a quello che è la produzione. E quindi sì, va bene fare il vino, ma è molto più importante riuscire a fare il grano e dividerlo tra le persone che partecipano, o la legna o altre cose, anche perché sono conquiste inizio secolo scorso che abbiamo perso completamente, perché nelle campagne bisognava essere forti perché il conflitto era nelle città, e personalmente credo che il conflitto continui a essere nelle città perché continuano a essere i poli dove poi si produce e si produce disagio, e quindi fondamentalmente le campagne devono essere forti per portare benessere a chi deve lottare poi dove il conflitto avviene, perché purtroppo in montagna anche con questo semplice fatto che noi facciamo un buon lavoro, arrivano i soldi e diventiamo cattivi, cioè sono tutte relazioni, come dire, a rischio di facile pacificazione. È facile, no? Poi alla fine se troviamo al bar e troviamo un modo per capirci. Quindi la montagna è, purtroppo è a rischio di pacificazione, laddove poi appunto si sta meglio, dicevate anche prima, e quindi per stare meglio si cerca di stare bene. In Val di Susa il conflitto permarrà e credo che crescerà, perché i progetti sono proprio queste sere presenteranno nuovi progetti sulla piana di Susa, e quindi hanno intenzione di militarizzare l'intera valle, affidarsi anche a sicurezza privata e compagnia bella. Quindi credo che il conflitto in Val di Susa, in quanto zona metropolitana di Torino, continuerà e spero crescerà, perché appunto il ricatto si sta facendo tale che adesso è il momento di azioni probabilmente un po' esagerate, come direbbe il nostro video. Grazie mille. Però quello che volevo un attimo dire sull'immaginario. Allora, è verissima questa cosa che dici sull'immaginario, però gli immaginari sono anche sempre una cosa manipolabile, non so come dire. Quindi come allora molti che andavano via, nonostante che ancora ci fosse qualche intervento pubblico, eccetera, eccetera, molti giovani andavano nelle città perché le città promettevano più ricchezza, più modernità, cioè dire, che evidentemente erano attrattive, evidentemente erano più attrattive. Allora, no, dicevo, siccome okay, sono adesso le città sono infinitamente meno attrattive perché non c'è lavoro neanche qui, cioè nella Milano dei sogni che si dice tanto che è la città più ricca d'Italia, sicuramente che attira più investimenti di tutto il resto d'Italia, però in realtà tutti noi siamo più o meno consapevoli che si guadagna pochissimo, cioè moltissimo, pochissimi riescono a permettersi di vivere qui, tendenzialmente pochissimi, soprattutto se non hanno una casa di proprietà, eccetera. Quindi è chiaro che invece nuovi immaginari si proiettano su territori esterni, soprattutto poi se tra i giovani si diffonde sempre di più questa idea anche della lotta per l'ambiente, evidentemente necessariamente questa non può che nutrire immaginari altri. Però quella cosa che dicevi tu prima, cioè allora forse tutti dovremmo andare in montagna perché il climate change sta rendendo invivibile le nostre pianure per mesi e mesi all'anno, quello è un rischio enorme per questi territori, perché evidentemente nel momento in cui diventano più attrattivi ci sarà un movimento di esproprio, di cattura di questi territori che non andrà certamente a giovare a chi li abita adesso, oppure ai giovani che nutrono immaginari alternativi rispetto alla città. Quindi io su questa cosa degli immaginari, su questo sarei anzi un pochino, come sempre, dissidente, perché non è mai una cosa politicamente univoca, inseguirli. Posso risponderti al volo, appunto gli immaginari non sono ideologie, non sono costruzioni politiche. Gli immaginari sono delle percezioni, delle rappresentazioni che emergono dalla società e dai gruppi, poi sta a chi agisce politicamente capire, interpretare questi immaginari, se riuscire a incanalarli in alcune direzioni, che cosa tenere e che cosa tagliare fuori da questa rappresentazione. Quindi diciamo che alla base di alcuni immaginari ci possono essere le spinte che vanno sia verso quella forma appunto di appropriazione del territorio di cui si diceva prima, alla Boeri, al borgo pettinato eccetera, così come ci possono essere dentro quegli immaginari delle spinte che vanno più nella direzione di quello che abbiamo sentito dire adesso sulla Valsusa. Quindi sostanzialmente, cioè, sta, quello che volevo dire è: da una parte c'è una situazione, mi sembra abbastanza inconfutabile, della considerare necessariamente questi luoghi come delle risorse che andranno a essere oggetto comunque di conflitto, che lo vogliano o meno le persone che sono rimaste a abitarci, i neoabitanti, chi vive in città, perché comunque sia, per quelle varie ragioni energetiche, ambientali, prodotti del territorio, di valore del territorio stesso, dell'aria, dell'acqua, e pensiamo appunto solamente a queste risorse, saranno oggetto di conflitto. Dopodiché gli immaginari rispetto a questi territori oggi sono degli immaginari comunque positivi, mentre veniamo da decenni in cui questi territori, a parte le grandi destinazioni turistiche, che erano stati costruiti degli immaginari, no? Per esempio soprattutto sulle Alpi, rispetto alle grandi destinazioni turistiche del Monte Bianco, del Monte Rosa, delle varie Cervinia, Gressonet, Sciampurco, quant'altro, o nelle Alpi in generale, a parte queste isole di immaginario, di rappresentazione funzionale a quei sistemi turistici, il resto c'è stato a lungo una rappresentazione di luoghi appunto perdenti sostanzialmente, di luoghi lasciati indietro dalla modernizzazione, di luoghi comunque che erano assolutamente al di fuori delle logiche della modernità, perché la modernità è ed era rappresentata come urbana, metropolitana, urbano-centrica. Oggi ci sono degli immaginari che attribuiscono un valore positivo a questi territori, indipendentemente in qualche misura anche dalla città stessa o in relazione alla città, ma presentandoli come un valore proprio. Naturalmente questo però può dar luogo a rappresentazioni poi e azioni politiche diverse, quindi sta lì capire come leggere questi immaginari, cosa tenere, cosa costruire su questi immaginari, quali conflitti agire rispetto a questi immaginari. Sì, io appunto inviterei, adesso c'è il buon Michele che vuole intervenire, però ci tenevo a sottolineare, secondo me, a proposito di immaginari ma soprattutto di pratiche, quello che un po' Matteo ci raccontava della Valsusa, io ci tengo a sottolineare questo aspetto che appunto raccontato qui in 10 minuti da Matteo, in realtà appunto lì in Valsusa e qua ci sono, cioè c'è Job, c'è Gran Jafar, ci sono altre realtà. E a proposito di immaginare, ci sono anche delle pratiche, e a proposito di quello che il conflitto e l'autogestione è riuscito a produrre in alcuni territori, perché il lavoro che hanno fatto loro è un lavoro che nessun bando, nessun finanziamento, nessun tipo di intervento, appunto se pensiamo banalmente alle compensazioni di quando hanno fatto l'autostrada in Valsusa, quelle compensazioni non ha prodotto nulla in confronto a quello che il conflitto e l'autogestione, il movimento, le persone che vivono lì, abitano lì e hanno attraversato quel movimento, sono riusciti a costruire a livello di immaginario, ma a livello di pratiche soprattutto. Perché se penso al lavoro che ha fatto Gran Jafar in Valsusa, è una roba enorme, cioè la valorizzazione. No, Matteo, cioè, lascialo, lo dico io, non lo devi dire tu. di vignaioli, di territori, ne abbiamo visti tanti, di vignaioli, di agricoltori finanziati e di progettualità nei territori, se ne sono stati fatti, ma quello che avete fatto voi per la Val Suda, tanto è vero, appunto, quando si scherza e quando c'è il problema del prezzo del vino, quel prezzo del vino lì in ogni caso è arrivato perché c'è dietro un lavoro, che dentro quella bottiglia c'è una storia, come diceva, come ci ha insegnato Veronelli, dentro le vostre bottiglie, dentro il whisky che oggi ha portato Giove, cioè, capito, c'è una storia gigantesca, e mi dispiace, ma è giusto dirlo, perché voglio dire, non è un discorso che, appunto, se si parla di gastronomia, se si parla di agricoltura, dal mio punto di vista è giusto riconoscere quel tipo di, cioè quello che si è riusciti a fare all'interno, appunto, con quegli strumenti. E quindi a me piace anche il ragionamento che faceva Andrea prima, di paragonare queste aree, appunto, di fatto marginali, ma di fatto potenzialmente interessanti, come lo sono stati, appunto, questi spazi, che erano spazi abbandonati, in culo a Cristo, che li hanno, che sono diventati protagonisti dal fatto, appunto, di un proletariato giovanile, che di fatto è così, bisogna dirlo, e che è riuscito a costruire, appunto, pratiche e immaginari che hanno, in ogni caso, con tutte le contraddizioni del caso, però segnato gli anni 90 in questo paese e quello che è venuto dopo. Certo, anche molto sussunto, questo succede, lo abbiamo visto con la terra prema, nel senso che comunque 20 anni fa quello che abbiamo fatto noi, è chiaro, è successo tante cose, e la capacità di appunto di essere innovativi dentro la marginalità, di diventarne protagonista, di quanto questa cosa poi diventa conflitto, diventa, e lì si tratta poi di vincere o perdere e tutta una serie di cose. Quindi, però, questo mi sembra importante sottolinearlo, nel senso che di fatto per me è così. Vai, Michele, mi raccomando. No, siamo stati, poi non lo so, mi viene da dire una nuova, cioè stiamo andando un po' lunghi, cerchiamo di... Per quanto riguarda il tema sulle aree interne, delle Alpi c'è stato solo l'intervento tuo, e questo è strano, che poi non è manco delle Alpi. Mi nonno era delle Alpi. Sì, però per dire. Allora io comunque sono appenninico, c'è stato un intervento dell'Abruzzo, che in qualche modo l'immaginario degli Appennini termina con l'Abruzzo, che c'è sta pure come dire, la Campania e c'è sta la Calabria come Appennini. Diciamo, la Puglia non ha chiaro. Comunque sì, parlando di aree interne, allora la questione mi riguarda, perché naturalmente vivo in un posto che nel 51 faceva 3.000 abitanti. Quando io sono andato nel 71 praticamente a fare la prima elementare eravamo 4 classi, quindi 100 ragazzini, probabilmente con prodotto. E adesso non riescono a fare praticamente, ma cioè tutti i partecipanti bambini alla scuola non arrivano probabilmente a 30. Non arrivano a 30, questo significa che in qualche modo c'è il problema evidente di qualcosa di straordinario che non si era mai verificato, diciamo così, cioè la decrescita non felice, insomma. Ma questo che significa? Significa che non sono capace di fare in 10 comuni limitrofi, un'area contigua, una scuola, diciamo così, che riguarda tutti i bambini, in modo di fare delle classi e di dargli da mangiare. Quindi c'è l'abbandono dei propri stessi figli, tutta la situazione del genere. C'è una faccenda, e loro perché non lo fanno? Perché c'è il gasolio, saranno 100.000 euro di gasolio, ci stanno 5-6 professori. Cioè parliamo di in altri termini, di una mafiosità, mafia a parte, che chiaramente coinvolge le proprie stesse situazioni, non è che tu ne puoi uscire. Questo è quello che è nell'immediato, ricostruendo e descrivendo un po' all'anglosassone la questione del terremoto di Irpinia, delle aree interne che ritornano ogni tanto come fatto tragico, eccetera eccetera. Allora il mio paese, sempre parlando del mio paese, faceva, nel momento in cui è successo questo terremoto, 2.000 abitanti, 1.800 abitanti. A un certo punto qual è stata la strategia? La strategia è stata quella di costruire il più possibile. Chi chiunque pensava di fare il business della ricostruzione, quindi pure con rude, rigoso, eccetera, eccetera. Però là c'era dietro il partito del cemento armato, che addirittura gli ha fottuto pure i soldi di risparmi che avevano. Ma che è successo? Questo paese che teneva 2.000 abitanti, l'hanno costruito per un'unità abitativa di 4.000, il doppio, ora fa 800 abitanti. Quindi ogni 8 case sono vuote. Quindi non c'è stata una minima considerazione, uno sperpero infame di denaro, e da lì mi pare che è andata la cosiddetta Lega, ma quindi è stato un errore micidiale sia da un lato che dall'altro. In finale, ecco, ci troviamo comunque avvinghiati in un fatto che si chiama mafia a parte e non se ne esce. Questa è la storia. Cioè, si soldi pubblici, come si hanno a spendere? Cioè, chi partecipa, chi capisce come si hanno a spendere questi soldi pubblici? Questo è il problema. Da questo allora, almeno la parte interna, io non vedo, come si dice, situazioni che possono dare, come si può, lume o invertire sta rotta, anzi si peggiora, se vogliamo. Ma no, non è che io poi giudico in maniera tale, in maniera cattolica, cioè sto facendo delle considerazioni, tra l'altro considerate che io mi trovo benissimo dormito, nel suo surrealismo estremo, quindi per dire, non è che ho problemi di adattamento o di... però sta di fatto che non riesco a pensare ai bambini, c'è stato uno spreco non mai testimoniato, mai accertato, diciamo, di quelli, ma non di pochi soldi. Nel 90-91 il fine è il più grande cantiere, è tutta la cosa, i soldi del terremoto, il più grande cantiere europeo di edilizia civile, oltre a quello che hanno fatto. Quindi se non c'è memoria, non c'è storia. Vi chiedo solo di essere breve. Infatti, breve, poi non... sarò brevissima, poi non ho il vostro vocabolario così complesso. Quindi. Io sono Barbara e vivo in Catalogna, da Milano sono vignaiola, viticoltrice là. E mi interessava molto il discorso perché noi siamo in una zona interna, però molto vicina a una zona turistica, nel nord della Catalogna, vicino a Figueras, Cap de Creus, eccetera. Ed è una zona sempre stata considerata depressa, pur essendo a 15 km da una zona molto ricca a livello turistico. È depressa perché è abbandonata, perché è senza potere turistico. E quindi è stata depredata negli anni 70, depredata tra virgolette, da stranieri che sono arrivati lì per comprare il luogo idillico, no? Che non si sono mai integrati nel tessuto sociale, quindi che non parlano una parola, che non, cioè, si comunicano tra di loro, di questi gruppi tedeschi, francesi, eccetera. Questo cosa ha fatto? Che non si è mai creato un tessuto vivo, perché c'era la gente dei paesi, che considerava il loro paese come un posto sfigatissimo dove non c'era niente, e questi turisti che vivevano della bellezza senza essere collegati al paese. Il risultato è una zona culturalmente morta, dove non c'è capacità di azione né neanche di critica, e che sta diventando il posto idillico dove andare a vivere da Barcellona alla città per vivere in smart work, come dicevate prima. Abbandonamento della terra, non c'è nessuno che lavora, perché quelli che vengono comprano le case perché hanno il potere di comprarle, però poi non sanno fare gli agricoltori, non gli interessa, e quindi non si produce il poco che si potrebbe produrre, che è vino e olio. E ciliegina sulla torta, siccome non c'è una massa critica che sa reagire, adesso è diventato territorio per l'installazione di grandi progetti macro, per installazioni eoliche, impianti eolici, però macro progetti, né cooperative di consumo né costruzione di centri, come hai detto prima, di gruppi. Non c'è nessuna capacità di costruzione di questo, non ci sono collettivi, non c'è territorio, insomma, e quindi stiamo diventando, cioè, tra poco tutti i campi di mais con il ricatto come la Val di Susa diventeranno pannelli solari e le zone rustiche che non hanno valore né a livello agricolo né a livello costruttivo diventeranno zone con parchi eolici. E il problema è che tutto quello che è successo prima fa che il territorio non possa rispondere perché non c'è né numericamente né culturalmente la capacità di reagire. Siamo un oggetto interno. Infatti è questa la cosa. Pronto? E questa è la cosa, cioè quello che diceva prima Matteo era fondamentale. Molto spesso la reazione politica avviene non tanto attraverso gli abitanti primigeni, ma attraverso delle specie di intrusi. Questo è quello che succede anche nelle città, anche all'isola è andata così. Cioè tutta la lotta del quartiere Isola contro la gentrificazione di Catella non è avvenuta per gli non è avvenuta tanto per opera degli abitanti storici di quel quartiere, ma per opera di una serie di artisti, attivisti, eccetera, che tra l'altro sono stati accusati strumentalmente poi da Boeri e da Catella di essere loro gli intrusi, per l'appunto. Ciò non toglie che quella lotta è stata fondamentale, è stata utilissima e che comunque aveva sul lungo periodo molto più senso rispetto al ragionamento opportunistico degli abitanti, dice oh però se viene il grattacielo mi si valorizza il metro quadro e io poi mi vendo la casa. Si sono venduti poi la casa e dove sono andati? Sono andati in una casa a 100 miglia più in là, perché evidentemente non è che poi invece non ci hanno guadagnato niente notoriamente. Cioè, ecco, questo voglio dire, alla fine l'immaginario positivo che si riversa sul territorio è una cosa che di cui uno può anche gioire, ma se non si distingue l'immaginario appunto critico, l'immaginario che effettivamente costruttivo, politicamente costruttivo, da quello appunto famelico del marketing, il rischio è che è essere mangiati, proprio essere spazzati via, ma senza il minimo riguardo. Ciao, sono Valerio della Panciovilla in Sabina. La Panciovilla voleva essere una comune, ma più che altro è una comunella. E, diciamo, la Sabina, non so se sapete dov'è, per urbano nord di Roma, è una macroregione che arriva da una parte fino alla Tuscia, a nord fino a Rieti e poi dopo attraverso la Salaria si inoltra nelle Marche, confina con l'Abruzzo e via dicendo. Quindi lì ci sono, come dire, tre economie dell'Italia, non c'è quella diciamo della pianura, ma c'è sicuramente un forte periurbano in cui insomma è molto forte l'approccio logistico, della logistica dei grandi capannoni, e poi c'è tutta una collina, zona collinare fino all'alta montagna, dove c'è l'economia appunto di alta montagna, con pastorizia, legnatico e via dicendo. Mostra di fatto che è anche una regione che negli anni è stata anche molto sotto attacco, ultimamente insomma quello che c'è abbastanza celebre, risaputo, è l'attacco al Terminillo, no? C'è questa montagna molto famosa che praticamente pare che nei prossimi 10 anni ci debbano essere le grosse precipitazioni nevose, e quindi stanno ampliando i campi da sci, creando un disastro ecologico sul quale però tutti sono d'accordo, principalmente chiaramente gli imprenditori del Terminillo, che vedono grande valorizzazione. Ero molto d'accordo sul discorso del processo di raffordizzazione, perché purtroppo il concetto di borgo viene fuori dal momento in cui i paesi hanno perso, si sono persi come spazi di relazioni significative, e rimangono i borghi che in qualche modo si tentano di valorizzare, con alberghi diffusi, la turistificazione, eccetera. Questo tra la Sabina e l'Abruzzo è proprio evidente, ci sono moltissimi paesi che sono stati terremotati e via dicendo, che vengono ricostruiti diciamo come se fossero delle bomboniere, ma non hanno più vita in sé, non c'è più vita fondamentalmente. Ma quello che volevo dire, però, dato che insomma veniamo anche da un'esperienza romana nel quartiere Pigneto, con la cooperativa di produzione e lavoro Zazie nel metro, la libreria Fiori Blu collegata anche qui a Calusca City Light, a Milano, eccetera. E noi dopo tanti anni insomma che abbiamo tentato di fare questo lavoro di collegamento tra città e campagna ci siamo anche un po' bloccati su questo e ci siamo anche detti ma perché non famo una rete campagna-campagna, escludiamo completamente la metropoli, nel senso che, come dire, tutta la discussione verte su quanto può essere funzionale o rifunzionalizzata la campagna in relazione ai bisogni della vita metropolitana. Invece un ragionamento che noi ci stiamo in qualche modo proponendo è quello su il ragionamento sull'Arcadia, fondamentalmente questa regione della Grecia che anticamente non dà luogo a sinecismi, come si chiamavano all'epoca, cioè a, come di tutti i villaggi che si riuniscono e formano una città, come è successo per Atene, quindi in qualche modo si pone anche come anti-Atene, come anti-polis, che non ha partecipato alle guerre del Peloponneso, quindi si pone anti-guerra e nello stesso tempo che cerca di come dire, questi abitanti che sono abituati insomma a lavorare una terra molto dura, molto difficile, e come dire, si ingentiliscono attraverso il canto e la poesia, e che rimette in discussione anche, diciamo, secondo una serie di modalità, anche il concetto di nomos che quel nazista di Kashmir traduceva come legge, no? E che in qualche modo si ritorna a usi e costumi, redistribuzione autonoma delle terre e canto e poesia, che sono, come dire, il terzo concetto che in testa un greco tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo aveva in testa come discorso sul nomos, perché il problema è proprio evitare che i territori delle campagne e attraverso il PNRR di cui prima citavate giustamente vengano in qualche modo ricolonizzate, vengono fatte oggetto politiche estrattive, e dove poi praticamente le persone che ci vivono non hanno altro che da rimetterci, perché sì, magari possiamo anche ottenere un po' di PAC, possiamo ottenere per chi come noi fa agricoltura naturale magari una serie di programmi come si dice innovativi, e poi questa parola insomma dovremmo cercare di capire come criticarla, ma che in qualche modo, in qualche maniera alla fine come dice, mettono alle dipendenze dei bisogni. Noi abbiamo Roma, anche tanto che sapete è una grande piora, una grande fogna, un grande buco nero che insomma in qualche modo assorbe umanità, cultura e territorio, e quindi che in qualche modo invece bisogna trovare in questa epoca in cui capitale, mondo e metropoli sono sinonimi, bisogna trovare un modo per rompere con questa tendenza, e quindi non avendo nessuna ricetta da portare disponibile da mettere qua sul piatto, però l'idea è quella di trovare forme di ragionamento che svincolino i territori della campagna dalle mille città che ci sono in Italia, e che quelli che stanno in città si organizzassero, si facessero gli orti urbani nei quartieri, bloccassero le strade e le aprissero e ci facessero le coltivazioni che gli servono, trovassero altre forme per educare i figli che non siano la scuola pubblica o la scuola privata dei preti, che quelli della metropoli si organizzassero nelle metropoli e in qualche modo evitassero di stare dentro questa dinamica, soprattutto questi territori vissuti nelle modalità in cui li vivono i neoabitanti, cioè come cittadini che vengono dentro alle situazioni di campagna a portare lo stile di vita della città, i consumi della città, le costruzioni e le distruzioni della città, è qualcosa che noi non possiamo assolutamente più accettare. Quindi come dire, l'esortazione che faccio non è tanto c'è una soluzione per tutto, assolutamente, ma l'esortazione che faccio è tentare appunto di svincolare i territori rurali dalla rifunzionalizzazione per i bisogni della metropoli. Grazie. Mi sa che facciamo tardi, però solo una, cioè, la posizione appunto è opposta e mi interessa molto rispetto al ragionamento sulla metromontagna, cioè tu stai dicendo al contrario, invece che promuovere una metromontagna, insomma, che la metropoli si facesse un po' le cose sue e noi ci facciamo le nostre. Cioè, secondo me è ovviamente è affascinante e attira, può attirare soprattutto per alcune posizioni come quelle che tu hai portato, però il dato di fatto è che anche nel nostro paese la gran parte della popolazione è e sarà e comunque continua a essere urbana e urbanizzata, e se vogliamo considerare le aree interne, le aree montane, per esempio scomodando la categoria dei beni comuni, questo ragionamento mi trova un po', diciamo, spiazzato, per non dire critico, perché chiaramente uno potrebbe dirti bene, ma è un ragionamento per cui quella grande porzione di territorio e di risorse è svincolata, come dici tu, dai bisogni della metropoli, viene vincolata alle necessità, ai bisogni e ai desideri di una componente piccola della popolazione. Quindi, non lo so, ecco, in un'ottica, diciamo, redistributiva e perequativa, quanto possa essere portata avanti oggi una posizione come quella che dici, cioè l'Arcadia è una cosa, oggigiorno quando la grandissima parte della popolazione è comunque nei contesti metropolitani, poi noi parliamo d'Italia che comunque è ancora un luogo policentrico tutto sommato, se guardiamo altri contesti europei ed extraeuropei, quello che sta fuori dalla città rappresenta un potenziale bene comune per tutta la popolazione di un paese, se vogliamo, o del mondo intero. Quindi in base a quale logica puoi dire che questa componente, questa parte del territorio deve essere svincolata dal resto? Ecco, questo, diciamo, mi lascia da un punto di vista anche generale, politico, perplesso. Dopodiché, vivendo dall'altro lato, io sono un cittadino, anche se vivo alle porte della città, come credo molti di noi, vedendola invece dall'altra parte, è chiaro che se tu sei in quel territorio e dici ma perché io devo accettare che arrivino le orde di persone, che ci siano delle pretese su questo territorio, posso avere una qualità della vita migliore, tutto sommato, se c'è meno gente, se non ci sono certe logiche. Però questa è anche una dinamica escludente, in ultima istanza. Quindi, cioè, voglio dire, i conti dobbiamo farli col fatto che io prima sono partito, come anche lei, dal lockdown. E chi viveva, chi ha vissuto il lockdown in campagna, nelle aree interne, eccetera, l'ha vissuto in un modo completamente diverso da chi l'ha vissuto nella metropoli. Questo è stato giusto? No, io mi sento qualcuno peggio, però nella maggior parte dei casi la percezione che ne abbiamo, insomma, è quella. Quindi forse un ragionamento anche su la distribuzione delle risorse, l'accesso alle risorse, l'energia, l'acqua, questi beni comuni, va fatta in un ragionamento tra quella che era la città e l'extraurbano, ma oggi almeno come la percepiamo, la rappresentiamo noi in queste ricerche, in queste pubblicazioni, di fatto è un continuum, cioè anche riproporre questa alterità ci sembra un po' falsato rispetto alla realtà dei fatti. Ecco, poi non so. Guarda, io questo vorrei dire una cosa soltanto. Vieni qua. Faccio un esempio semplicemente col Peschiera. Il Peschiera è un fiume che sta proprio dalla parte del Peschiera del Trotto, cioè dalla parte est della Sabina che va verso le Marche, per intenderci tutto quel territorio che è stato terremotato, no? Con il terremoto di Amatrice, eccetera. Allora lì praticamente il Peschiera viene diviso in due, a una parte dei paesi gli viene tolta l'acqua per mandarla a Roma. Questa è la funzionalità che hanno le campagne per le grandi città, funziona così, e c'è stata tutta una battaglia dei sindaci lì che però non trova nessuno sbocco. Sì, il Peschiera, parte di paesi, non lo vedono più. Quello che però vorrei dire rispetto a questo invece è una critica di tipo politico, cioè quando si pensa di poter essere lasciati in pace e diciamo, fare un'azione politica circoscritta a una comunità, in realtà purtroppo ormai si resta esposti infinitamente di più alle forze del capitale globale. Cioè, come diceva prima Barbara, in Spagna, dove c'è stato meno protezione paradossalmente statale, perché i territori esterni alle città sono stati infinitamente più, in Portogallo ne parliamo proprio, sono stati infinitamente più esposti sostanzialmente a delle forme di land grabbing. Nelle terre del sud Italia, che sono un po' meno organizzate, strutturate, un po' meno paradossalmente urbanizzate rispetto a quelle del nord, di fatto ci sono interi campi e campi di eolico dove non ricade neanche 100 lire, neanche un euro ricade sul territorio, perché in realtà i soldi vengono tutti poi recapitati, le tasse che vengono pagate su quell'eolico e i soldi che vengono estratti ricadono tutti in altre città, altre imprese, altre cose. Quindi voglio dire, in realtà questo è l'unico, cioè bella l'Arcadia, però poi immediatamente sei esposto a ben altre aggressioni che quelle della città di Roma, secondo me. Beh, non so dove... dove... Sì, nel senso che mi sembra che il livello della discussione è di carne al fuoco, ne abbiamo messa tanta. Daniele, vuoi dire qualcosa? Attenzione, Daniele, se ci dice Daniele dove andare è pericoloso. No, non ti dico dove andare. Tanto mi sembra che l'Appennino vinca piuttosto consistentemente, che è normale, diciamo, rispetto alla Spagna. Sull'Alpe, Membretti, non so se il campione statistico è sufficiente, se può significare qualcosa oppure una casualità, che la terra trema, diciamo, almeno questo tipo di dibattito, che forse sono diverse le condizioni di esercizio di larga parte dell'azienda agricola, dell'attività imprenditoriale o anche della residenza di larga parte dell'Appennino rispetto almeno a una parte dell'arco alpino. Vero è che, come dire, è la conferma del fatto che è esistito ed esiste un sud del nord, anche al nord. Il comune di Borgo Valditaro perde, tra il censimento del 61 e quello del 71, perde il 30% degli abitanti. Faccio questo esempio, cerco di dare esempi concreti e fare un po', diciamo, di astrazione, di riflessioni sul caso. Sono tutti abitanti che vanno verso le concentrazioni fordiste d'Italia o d'Europa e arrivano quasi tutti alle frazioni del comune principale. Questo succede qui, ma è successo in larga parte d'Italia. Oggi siamo di fronte a qualche segnale di una tendenza diversa, nuove popolazioni. Credo che il lavoro che è stato fatto con Metro Montagna, ho avuto l'occasione di leggere, di sentire anche Andrea Membretti a Berceto qualche settimana fa in un interessante, diciamo, convegno generale, ma diciamo su questo tema, è un elemento di novità. Chi siano questi nuovi residenti dal punto di vista politico mi è più, diciamo, chiaro nella loro frastagliatezza, soprattutto quelli che arrivano in qualche modo da fuori, molto frastagliati, ne conosco di diversissima estrazione politica e religiosa, però diciamo abbastanza chiara, la residenza per, diciamo, scelta e necessità, anche là nuovi arrivi sono prescelta ovviamente, ma diciamo per scelta autoctona e necessità è più complicata. Qualche segnale me l'ha dato le elezioni europee del 2019, dove la maggior parte dei comuni ha votato al 70% la Lega Nord, sulle amministrative il caso è diverso, che identifica, come dire, alcuni aspetti, secondo me, di carattere identitario, che però non è che non ci riguardano, riguardano le risorse, riguardano il territorio, riguardano tante cose di questo tipo. Le terre, almeno io parlo di quello che conosco, le terre sono marginali, lo sono state da un certo punto in poi e lo sono ancora, però qui poi pongo una domanda. Faccio l'esempio, io ho a fianco un sistema di mulini, ce n'erano centinaia, un sistema di 3 mulini che è stato abbandonato in un luogo che aveva 30-40 abitanti e da 50 anni, 40 anni non c'è più nessuno. Quei mulini vengono abbandonati nel 41 perché è il risultato della prima grande meccanizzazione della pianura, di epoca fascista, in questo caso è la pianura, e comincia, cioè prosegue, comincia, si robustisce una marginalizzazione che poi ha prodotto largamente fenomeni migratori. Mi chiedo, dentro questa ricerca, dentro questo percepire, qualche intuizione direi, c'è un qualche elemento di modificazione di questa situazione di marginalità rispetto all'agroindustria? Io penso di sì. Se lo faccio dal punto di vista quantitativo mi interrogo, e andrebbe fatto un'analisi ovviamente meno così a spanne, sul fatto che allora, e sempre più negli anni 50, 60, 70, il differenziale fra redditi, diciamo, urbani, per lo più industriali, e redditi agricoli delle aree marginali e montane era incommensurabile. Oggi la situazione, se proviamo a rifletterci, non è così, diciamo, netta, è sempre probabilmente squilibrata, ma non è così netta. Chiaramente non è soltanto una visione quantitativa, un'analisi quantitativa quella che dobbiamo fare, ma anche qualitativa, di qualità della vita, di servizi. Chi torna oggi a abitare la montagna non trova la stessa montagna di 40 anni fa, primo perché il bosco è sceso di 200 metri in una generazione, quindi vabbè. Secondo, perché non esistono più servizi, venivano citate le scuole, esistono molto meno. Venivano citate le scuole, quello è un problema. Vogliamo parlare dei punti nascita che sono stati i primi a chiudere anche, no? Vogliamo parlare dei pronti soccorso? 2 o 3 anni fa è stato chiuso, il comune sempre citato, il punto nascita, adesso si chiude il pronto soccorso, il prossimo probabilmente sarà l'ospedale, perché anche qui c'è una concentrazione. Io sto parlando di Emilia Romagna, sia nei termini di percentuale della Lega, sia nei termini di dissesto dei servizi, non sto parlando di Regione Lombardia. Quindi l'interrogativo secondo me è se dentro il tempo che verrà c'è diciamo un qualche fondamento di carattere economico qualitativo, intendendo anche il complesso della qualità della vita, che in questo può andare. Si dovrebbe fare una riflessione sul PNRR, a parte il fatto che è calato totalmente all'alto senza alcun elemento di consultazione, che ne ha dato anche notevolmente opacità. Discorso complessissimo, non lo affrontiamo. Alcuni comuni delle zone interne, quelli più attrezzati, quelli che sono riusciti a conservare un minimo di struttura tecnica, sono riusciti a presentare dei bandi riguardanti l'agricoltura, la missione e gli obiettivi destinati all'agricoltura e in parte alle aree interne. La maggior parte dei comuni delle aree interne non ha potuto farlo perché è non dotata proprio fisicamente delle strutture amministrative per poter partecipare. Allora, sul lungo periodo, e chiudo su questo, io non ho dubbi sull'evoluzione. Certo, fra 400 anni, quando l'innalzamento dei mari produce verosimilmente migrazioni un po' più ampie dalle zone costiere, noi siamo tutti morti. Quindi dobbiamo fare, io credo, per essere credibile, un ragionamento di più breve periodo. Su questo, e chiudo veramente, 20 anni fa fare un'assemblea di questo tipo, veniva citato, come in breve citavo un libro che fece lui, per carità, allora, 20 anni fa sarebbe stato impossibile una chiacchierata di questo tipo, ma anche perché le divisioni politiche erano più nette, insomma, no? Qui invece le pratiche spesso, diciamo, aiutano. I 20 anni sono passati. Io di Leoncavallo Montani, di Metro Montani, pensandoci, ne ho conosciuti, ce ne sono diversi in giro, pochi producono vino, forse nessuno, ma che hanno fatto negli eventi, nei anni trascorsi, questo tipo di processo ce n'è tanti. Io credo che molti luoghi d'Italia, simili a questo e diversi da questo, abbiano, come dire, siano una parte, magari minuta, di quel flusso in fuoriuscita dalle aree metropolitane che cambiamenti climatici, qualità della vita, differenze reddituali hanno. Mi chiedo, è possibile che il prossimo anno, diciamo, sperando che alcuni ragionamenti vadano avanti, che non rimanga questo un incontro isolato, che ognuno faccia poi nel suo quello che vuole, è possibile che in una forma un po' più ampia, quindi non limitata alla chiamata in qualche modo che si è tentato, che la Terra Trema ha tentato di produrre oggi con grandissima intelligenza, secondo me, alle realtà poi produttive, a ciò che gira attorno, ma una, come dire, un invito un po' più ampio ai tanti che conosciamo, le tante esperienze, e nei territori ce n'è, territori anche appunto marginali, che hanno attraversato le culture politiche, che oggi fanno sostanzialmente altre, ma mantengono nelle loro pratiche alcuni valori, alcune volontà, suggestioni di cambiamento anche nell'esperienza quotidiana. E io penso che si possa fare, per cui secondo me l'iniziativa di stasera, io ringrazio veramente la Terra Trema perché ha raggiunto secondo me l'obiettivo, e ringrazio soprattutto i relatori, che adesso chiudono immagino, e che ci hanno dato, come dire, quel contorno e quei contenuti che ci aiutano nel percorso che magari riusciamo a fare. Secondo me abbiamo raggiunto il tempo massimo, quindi grazie e spero che ci potremo trovare in un evento ulteriore più ampio anche l'anno prossimo. Grazie.